9 in punto, la versione di Oscar. Buongiorno cari ascoltatori, a maggior ragione dopo quello che ha uscito di bocca al presidente della provincia di Udine, il leghista Pietro Fontanini, che probabilmente con quello che a molti può sembrare una considerazione di elementare buonsenso, mi ha invece fatto riflettere a lungo, perché io non la considero affatto una considerazione ispirata a buonsenso. A che cosa mi riferisco? Al fatto che in un convegno il presidente della provincia di Udine ha detto che i disabili nella scuola ritardano lo svolgimento dei programmi scolastici e che è più utile quindi metterli su percorsi differenziati. Questi percorsi differenziati ovviamente descrivono con l'apparente delicatezza di un proposito volto a migliorare le condizioni rivolte a ciascuno, però descrivono un orizzonte nel quale c'è la separazione tra, tra virgolette, la normalità vera o presunta che sia e la, tra virgolette, disabilità. Ed è ovvio che questo in realtà deve creare un problema per noi tutti, perché quello che poi in apparenza può sembrare buon senso e anzi può far apparire melassoso politicamente corretto il voler negare che esista un problema per il disabile, nella realtà si capovolge nel paradosso dell'abbandono di una prospettiva che ci è costata secoli abbracciare e che secondo me è una grande lezione di civiltà e di umanità difendere, e cioè quella di abbattere ogni barriera nei confronti del disabile. A maggior ragione dopo queste parole del presidente della provincia ho deciso che era il caso di occupare una puntata con un tema un po' diverso dal solito. Questa volta non parliamo di un tema economico, di numeri o di aspetti di legislazione politica che mi hanno particolarmente scandalizzato o colpito con protagonista della vita italiana, ma invece prendiamo due autori di un libro. Questo libro è uscito per l'editrice San Paolo, si intitola Distanze ravvicinate, alcune amicizie nascono da lontano, è il sottotitolo, e ho deciso di parlare con i due autori. I due autori sono Enrico Saletnic e Rita Coruzzi. Enrico Saletnic è un funzionario pubblico attualmente in forza al Quirinale, quindi fa parte insomma di una parte dell'amministrazione pubblica che ha competenze elevate, che si trova a dover svolgere la propria prestazione professionale al servizio della parte più delicata delle nostre istituzioni, quindi da un certo punto di vista è un osservatorio privilegiato che si è saputo conquistare attraverso la selezione nella parte elevata della vita pubblica. E invece la coautrice si chiama Rita Coruzzi, è più giovane di Enrico Saletnic e sta su una carrozzella per via di un bel po' di problemi fisici che sono avvenuti alla sua nascita, che sono stati poi peggiorati da dei medici che non sono ben intervenuti. Il risultato è che sta su una carrozzella ed è una persona strepitosa, straordinaria, perché rilascia delle dichiarazioni che per chi ha qualche problema nel maneggiare la sofferenza e il male risultano addirittura, posso dirlo, sembrano quasi eccessive, perché è una persona che è molto piena dell'esperienza di ciò che gli è capitato, ha molta fede anche, e quindi non nasconde per esempio di considerare un arricchimento la sua disabilità e la sua condizione, al punto tale da dire: se dovessi scegliere tra quello che mi è stato dato e il fatto che ha moltiplicato la mia acusia, la percettività dei miei sensi, la consapevolezza di quello che mi avviene, e dover invece rinunciare a questo essendo più o meno normale, come voi dite, molto probabilmente non rinuncerei alla mia condizione. Allora, la particolarità è che ho voluto che a raccontare questo libro, questo loro incontro, questa cosa che avviene casualmente e che poi avviene scambiandosi la convinzione che c'è molto da dire, sia pure incontrandosi casualmente, ho voluto che siano loro per toccare un po' di questioni, a cominciare certo da questa della disabilità, ma per rimetterci oggi al centro di una prospettiva in cui è l'aspetto umano quello che deve fare la differenza. Non lo dimentichiamo spesso, voi lo sapete, io sono impegnato sul fronte di chi soffre, faccio anche il volontario. Per me questo è l'aspetto forse in cui privatamente sono riuscito a dare qualche cosa di più nella vita, non avendo famiglia, non avendo moglie, non avendo figli, e quindi per me questa prospettiva del rimettere al centro l'uomo ogni tanto ha la sua importanza. Vedo che a molti nei messaggi si chiedono se oggi Giannino non è impazzito, ma sapete che ogni tanto io ho di questi colpi di testa. Allora andiamo direttamente agli autori di questo libro, vi ripeto il titolo: Distanze ravvicinate, San Paolo Editore, alcune amicizie nascono da lontano. E quindi iniziamo a salutarle. Saluto innanzitutto Enrico Saletnic. Buongiorno Enrico. Buongiorno Oscar, buongiorno agli amici ascoltatori. E buongiorno a Rita Coruzzi, buongiorno anche a te Rita. Buongiorno Oscar e buongiorno a tutti i radioascoltatori. Allora Enrico, brevemente com'è che vi siete conosciuti con Rita? Dunque, la storia dell'amicizia con Rita nasce da lontano, cioè da qualche anno fa, insomma, eravamo intorno al 2007 ed è una storia in qualche modo paradossale, perché Rita era a Roma per una giornata molto importante che poi si tenne proprio di questi tempi, quasi nel dicembre del 2007, per la giornata internazionale dei disabili, e venne a Roma come ospite di una grande cerimonia. E io ebbi notizia di lei, però poi non da lì decisi in qualche modo di incuriosirmi la ragazza, poi non ci incontrammo. In un'altra occasione successiva dell'anno 2008 ci trovammo a Torino, infatti il libro poi è ambientato a Torino, inizia con un incontro metaforico, perché Rita era al Salone Internazionale del Libro, anche lì per presentare questi splendidi libri che ha scritto sulla sua sede, e io anche ero lì per motivi di lavoro. Anche in quel caso incrociai Rita tramite la madre, Marta, che tra l'altro saluto, ma non avemmo modo di conoscerci fisicamente. Nacque questa amicizia epistolare, diciamo elettronica, come dice nella prefazione Giovanni Anversa, cioè di notte io nottambulo e Rita, come dire, creativa di notte, ci trovammo con queste email, questi sms, di tutto quello che di elettronico abbiamo potuto utilizzare, ed è nata l'idea di questa amicizia. Quindi diciamo che questa è una storia reale, la storia dell'amicizia tra me e Rita, ma che poi abbiamo trasfuso nel libro, diventa un'amicizia epistolare, come dire, narrativa, dove a volte i personaggi coincidono con gli autori, ma altre volte meno. Per esempio il libro inizia con un uomo che fa footing, fa ginnastica in Parco del Valentino, ovviamente non posso essere io, nel senso che mi conosce, sa che esercito con regolarità il mestiere del pirro, e quindi però pensavo ad un titolo, un qualche cosa che potesse riflettere questo incontro così strano, e quindi diciamo che così abbiamo voluto iniziare con una metafora: l'uomo sano, allenato, che gira per Parco del Valentino a correre, si imbatte in questa sedia a rotelle, rimane colpito da questa ragazza e decide di come dire, di mandarle un'email, di avere un contatto con lei, e in qualche modo si lascia sedurre dalla ragazza, dalla verve della ragazza, e la ragazza a tempo stesso, diciamo, si incuriosisce del personaggio, e da lì nasce la storia del libro. Rita, toccando, iniziamo dalla parte più difficile, per così dire, toccando nella parte centrale del libro, in uno scambio di opinioni con Enrico, il tema della disabilità, tu scrivi, scrivi così: convivendo con la disabilità si diventa parte di essa, la si porta addosso come un vestito. Non riesco a trovare paragone più calzante. Infatti ho dichiarato più volte che senza la carrozzina mi sento come nuda. Però attenzione, si deve curare, sempre curare questo vestito. Non deve mai diventare logoro, talmente familiare da dimenticarsi l'esistenza di altre cose. Io noto che alcuni disabili purtroppo portano la disabilità come un vecchio abito sgualcito, che è diventato talmente familiare, comodo, che si dimenticano che si potrebbe rammendare, cucire o addirittura rendere migliore. Quando un disabile si lascia andare in questo modo, si fa della malattia il suo scudo, e allora non diventa più solo una situazione di fatto, ma anche una giustificazione per ogni cosa, anche per non avere rapporti umani al di fuori della cerchia dei disabili, perché c'è anche questo rischio, che i disabili diventino una terza nazione appartata e ghettizzata, senza desiderio o bisogno di confrontarsi o di cercare approcci con le persone normodotate. Ecco, mi ha molto colpito il fatto che quasi arrivi al punto di prendertela con chi nelle tue condizioni, o in condizioni anche, come sai, peggiori delle tue, molto peggiori delle tue, ma insomma non prende questa cosa come un impegno, come una militanza. Sei scoraggiata anche tu per ogni tanto o no? Sì, certo, che anch'io sono scoraggiata, però io trovo sempre un modo, un motivo per rialzarmi e per continuare a battermi e rendere la mia vita migliore. Diciamo che non è che me la prendo, diciamo che quello che ho scritto vuole essere un incoraggiamento, magari anche in modo duo, questo non lo metto in dubbio, però io ho visto tanti disabili proprio lasciarsi andare e fare in modo che la loro malattia diventasse appunto una giustificazione. Ah, io questa cosa non la faccio, io questa cosa non ci provo neanche perché sono sulla carrozzina. Non è una ragione sufficiente, perché la vita può essere bella e vale la pena di essere vissuta anche sulla carrozzina. Certo, c'è qualche difficoltà in più, però bisogna saperlo affrontare. Ecco perché l'ho paragonata ad un vestito che va curato, va mendato, lavato, perché bisogna avere cura dei propri vestiti e delle cose che si portano addosso, anche se queste cose sono all'inizio scomode e ti stanno strette, perché la mia disabilità nei primi tempi mi stava molto stretta, io non l'avrei mai voluta, non l'avevo cercata, anzi io avevo sempre cercato la guarigione, di migliorare fisicamente, ma visto che non era più possibile, dopo proprio 4 anni di scoraggiamento totale, che proprio in quei 4 anni non ho vissuto, ho iniziato a capire che dovevo fare qualcosa e dovevo imparare a convivere meglio con la mia condizione, perché la vita poteva e doveva essere migliore. Senti, quando le parole che ho pronunciato all'inizio della trasmissione, quelle del presidente della provincia di Udine, Pietro Fontanini, che torna a proporre per i disabili rispetto ai normali nelle scuole le classi differenziate, insomma una netta separazione, che cosa ti inducono? Cosa penso? Che è sbagliato. È sbagliato perché i disabili, io posso essere d'accordo che alcuni abbiano bisogno dei loro programmi differenziati, però non credo facciano bene a stare in classi separate, perché così non si fa altro che aumentare la divisione e non si fa altro che cercare di nascondere una realtà ai non motivati e cercare di emarginare i disabili. E quindi questo secondo me è dannoso per ambo le parti. Poi il fatto che io non mi sia mai avvalsa nella mia carriera scolastica, adesso della mia carriera universitaria, perché sto finendo l'università, non mi sia mai avvalsa dei programmi differenziati, anche se mi sono stati offerti, è un'altra faccenda, perché io mi sentivo in grado di fare i programmi normali, ma non bisogna, sull'utilità dei programmi differenziati posso essere d'accordo, però non incoraggio assolutamente, sono in disaccordo con questo mai delle classi vere e proprie, perché proprio ci sarebbe l'immaginazione, proprio diventerebbe, come ho spiegato in distanza ravvicinata, un'altra nazione, perché noi disabili siamo tanti da riempire una nazione, però distaccata sola. Enrico, posso chiederti, così chiudiamo questa pagina iniziale che mette al centro la condizione particolare di questa straordinaria donna che è Rita sulla sua carrozzina, e mi è sembrato giusto cominciare da questo perché è un impegno che dobbiamo a lei, a chi sta come lei, e la dobbiamo a lei soprattutto però per la tenacia, l'impegno, la testa d'ora che mette nelle cose che fa. Dal tuo osservatorio istituzionale, insomma, si fa abbastanza per questo secondo te? Ma no, guarda, ossia, certamente... Questa è una riflessione che ho portato avanti anche scrivendo la mia parte di libro, cioè si fa quanto si fa. Io ho anche cercato di dare qualche dato e riprendere un po' di letteratura sulla materia. C'è Matteo Schianchi, tra l'altro voglio ricordare in questa sede, che insomma chi volesse approfondire poi la tematica sulle politiche sociali a sostegno delle persone con disabilità non può non leggere i libri che scrive Matteo Schiacchi. Ricordiamo quello uscito per Feltrinelli, l'ultimo si intitola La terza nazione del mondo, i disabili tra pregiudizio e realtà. Esattamente, ricordiamo il numero, ci sono 650 milioni di disabili nel mondo, che fa il 10% della popolazione mondiale, e se messi tutti insieme sarebbero la terza nazione del mondo. Dunque, per quanto riguarda la tua domanda, quanto si fa, come si fa? Si fa tanto, non si fa mai abbastanza, non si perdono occasioni anche per stare zitti, come questa ultima proposta del presidente della provincia di Udine, perché diciamo, forse lo avrà detto in modo provocatorio, bisogna sentire anche le successive interviste, sicuramente quando si parla di disabili si deve tener conto che, un po' questo abbiamo cercato di dirlo nel libro, di dimostrarlo, disabili si è un po' tutti, e abili si è un po' tutti, cioè disabile con una malattia, una patologia esteriore agli arti, fai conto, un difetto fisico, un'imperfezione fisica, quella che ha Rita ad esempio, però poi ci sono anche disabili interiori, del foro interno, persone che hanno una propria instabilità anche temporanea, quindi per esempio appunto ci sono disabili che diciamo perseguono una terapia, un protocollo clinico anche a medio termine. Per taluni questi disabili non sarebbero da definire disabili, è una materia ancora tutta da, come dire, da scoprire, anche dal punto di vista delle terminologie. Ha scritto bene nella prefazione il ministro Meloni, io mi associo a questa osservazione della Meloni, che dice, ma insomma togliamoci un po' dai termini tecnici, quando sei diversamente abile, disabile, handicappato, insomma le persone che sono in difficoltà. Ecco, le persone che sono in difficoltà sono il nostro, come dire, il nostro obiettivo. Come fare ad aiutarle, a sostenerle, anche perché un giorno potremmo anche noi trovarci in quella situazione. Schianchi, nelle statistiche che ci dà, inserisce anche le persone che hanno contratto una disabilità in conseguenza di una malattia grave, che non avrebbe necessariamente adottato una disabilità, ma che per conseguenze relative appunto ai protocolli porta ad una infermità diciamo quasi permanente o permanente. Ecco, tutti questi sono soggetti come noi, e quindi diciamo che alla tua domanda ci sono possibilità di fare ancora di più, io risponderei assolutamente sì. Sia dal punto di vista clinico, anche se non sono un medico, quindi non mi avventuro in questa materia così anche complessa, ma per esempio dal punto di vista giuridico, no? Noi lo riprendiamo nel volume sulle pari opportunità, è uscita una legge che ha una sua rilevanza sulla difesa in giudizio delle persone con disabilità, nel caso per esempio di mobbing, ricordare che è la legge 2006 del 67, e che stabilisce per la prima volta che per qualsiasi tipo di danno da una condizione di disabilità, gli enti collettivi portatori di interessi delle persone con disabilità possono intervenire in giudizio per il risarcimento dei danni. Questa è una diciamo, direi profonda innovazione sul versante della tutela giuridica. Ovviamente ancora siamo agli esordi, agli albori di queste discipline a tutela, per esempio ancora ne parlavo con Bonprezzi, con Franco Bonprezzi, che voglio ricordare, insomma, uno dei grandi esponenti dei movimenti di disabili, diciamo, non abbiamo per esempio ancora una banca dati reale, come dire, aggiornata in tempo reale di tutte le associazioni di disabili, sia di quelle delle onlus, diciamo, di primo grado, sia di quelle che riuniscono le associazioni, cioè le associazioni di associazioni. Quindi diciamo espressioni territoriali di questa realtà ancora non sono state, diciamo, riunite in una grande banca dati, mi sembra di capire che il Ministero per le Pari Opportunità, il Dipartimento per le Pari Opportunità, si è posto anche questo obiettivo da qui a qualche anno. Bene. Di contarle. Esatto, sono, esatto. Allora, la mia opinione, niente, a fine di questa prima parte della trasmissione, adesso andiamo in pubblicità, è che ogni tanto bisogna che noi ricordiamo come mettere le donne, gli uomini, i bambini, gli anziani, i disabili, i problemi della malattia, delle patologie che cresceranno perché cresce l'attesa di vita, quindi non solo di coloro che hanno un problema fondamentale rispetto ai normali, ma rimettere tutto questo al centro di una visione di come si organizza una società, di come si organizza un'economia, di cosa vuol dire l'utile, il profitto, il non profitto per il privato sociale, come tutto questo va visto dal basso, molto meglio con la sussidiarietà che dall'alto di chi organizza e fa il dirigista statalista. Tutto questo è la sfida forse più importante a cui ci chiamano i nostri tempi, e ci chiamano a questa sfida perché siamo paesi avanzati, perché siamo paesi di più lenta crescita, perché siamo paesi che abbiamo abbandonato la prospettiva della centralità, non dell'uomo, della donna, del disabile, io dico della vita, comunque la pensiate in materia di fede, ma della vita, la centralità della vita è una prospettiva da recuperare. E poi si sente in tutto questo, persino nello slow food, in chi critica il PIL e in chi dice che abbiamo perso questo come capacità di saper misurare l'economia, in tutto questo c'è un granello fondamentale. E secondo me la straordinaria lezione di persone come Rita, che dalla sua carrozzina ci invitano poi al buon umore, ricomincerò chiedendole del buon umore, è in realtà un enorme richiamo, è un richiamo a rivedere il fondamento della nostra maniera di concepire cos'è una vita pubblica, che cos'è una vita economica, perché ciascuno di noi sta su questo cavolo di frammento polveroso che se ne va nel cosmo. Pubblicità. Allora, dice a un certo punto Rita, racconta di una giornata normalissima in cui è molto contenta di andare all'università, canticchia una canzoncina degli Aristogatti, e andandoci però naturalmente nella carrozzina solo acciottolato, è un po' come andare nella samba, e lei arriva, insomma gli studenti un po' la guardano perché questo andare sulla samba ovviamente a chi come noi si crede normale qualche problema ce lo crea, ci fa sentire in imbarazzo, in difficoltà rispetto a un nostro compagno di università che arriva saltellando sull'acciottolato, però le dice, io poi con indifferenza li guardo, sorrido, perché l'umorismo è il sale della nostra vita. Rita, come si fa a essere così capaci di avere l'umorismo nelle tue condizioni? Forse però bisognerebbe estenderla a tutto, lo chiedo a te perché riguarda ciascuno di noi nei suoi brani. Tante volte Enrico fa capire quanto l'angoscia di vite normali possa però sconfinare in un problema enormemente serio, altrettanto più serio, talvolta anche più serio di chi viva l'angoscia, coltiva l'angoscia perché ha un problema fisico. L'angoscia è un problema che ha a che vedere con nulla, con la relazione al nulla di cui è intessuta la piega della cultura e della filosofia della nostra modernità e postmodernità. Per questo ti chiedo però una riflessione profonda: come si fa a coltivare l'umorismo? Beh, io credo che l'umorismo sia proprio il sale della nostra vita, perché nella vita ci vuole l'umorismo, perché diciamo le cose francamente, la vita è talmente spietata alle volte, proprio talmente crudele, ci sono proprio delle situazioni che senza umorismo come fai? Se ti prendi tutto sul serio, senza un minimo di autoironia, ti spari. Ecco perché io coltivo l'umorismo e anche l'autoironia, perché io poi dico di me stessa che sull'acciottolato, quando vado all'università a Palma, che c'è proprio un bel acciottolato, io ballo la samba, però a me sta bene così, l'ho accettato, anzi, se vogliamo fare una battuta, che poi una battuta sulla metà, è ballare la samba dall'acciottolato di Palma è un ottimo metodo per digerire dopo che si è mangiato. Va bene. Senti, però io ho anche l'obbligo di chiederti una cosa che immagino ad alcuni convince molto la tua esperienza, ad altri invece convince meno, perché lo sai che nel nostro paese la fede, quando è una fede che si propone come profonda e come scandalosa perché non teme di doversi affermare come metro nella vita propria, privata, nella vita sociale, nei contesti organizzativi e nella vita pubblica, torna a essere quello che è sempre stato quando è una professione coerente, e cioè motivo di scandalo, motivo di divisione. Allora, te lo voglio chiedere con grande semplicità. Rispetto a chi pensa che nelle tue condizioni la fede sia una specie di appiglio, un'ancora per darsi un senso al di là di questa esperienza limitata su questa terra, la risposta a chi la vede così, perché sono in tanti a vederla così, Rita, io so cosa vuol dire quando do una mano ai giovani degli ospedali, tante volte coi parenti mi trovo a questionare, talvolta anche a litigare, perché mi dicono: ma cosa cavolo vai con il libro in mano a parlare di queste cose, non ti rendi conto che per loro è solo la paura di morire? E io gli dico: guardate, secondo me bisogna porsi il problema da un punto di vista diverso. Io vengo da una cultura laicista, ho faticato e fatico molto su questi temi, però lo chiedo a te, lo voglio chiedere a te, a chi pensa che la tua professione di fede, il fatto che tu parli tanto in quello che fai, in quello che scrivi, di Cristo, di Gesù, dell'importanza della fede, e chi pensa che sia una maniera per difenderti, per vederti proiettata oltre la tua carrozzina, che cosa puoi rispondere? Io rispondo che la mia non è assolutamente una fede a oppio, perché se viene classificata così, almeno io, in una testimonianza che ho fatto, un ragazzo ha dei ragazzi, perché io vado anche nelle scuole, nei convegni, insomma dovunque mi chiamino, mi aveva detto un ragazzo: ma la tua vita non è una fede a oppio, non è una fede che tu tieni per giustificare la tua condizione, per appunto quello che tu, Oscar, dicevi molto bene, per giustificare, per aggrapparti a qualcosa anche se sai che non c'è. La mia non è assolutamente una fede a oppio, la mia è una fede convinta, in cui credo, proprio convinta che quello che faccio può essere di utilità non solo per gli altri, ma anche per me stessa. Se io ti dicessi che nella mia fede o dicesse a tutti i telespettatori, come sto facendo, che nella mia fede ho capito che per me il meglio è stare sulla carrozzina, umanamente non te lo potrei dire. Io te lo dico con un percorso di piede ad alzare, quando ho capito che una vita sulla carrozzina mi dà molto di più che una vita da normo dotata. La mia non è una fede a occhio, la mia è una fede vera che può essere più o meno debole, perché è debole anche la mia, perché a volte mi scoraggio anch'io, anche se adesso sembro tutta grintosa, positiva, ma è così che sono di solito, ma i miei momenti di sconforto ce li ho. Però la mia fede mi ha sempre aiutato a vedere il canale su cui versare le mie energie, perché la fede può diventare uno strumento per come impiegare la propria sofferenza, perché se la guardiamo solo dal punto di vista umano, la sofferenza è veramente una cosa che ti getta nel baratro, una cosa per cui nella società sarei sempre scartata, guardata con compatimento, e quindi questo ti fa piombare proprio nella disperazione, perché dici: allora io cosa sto in questo mondo a fare? Questa è una punizione, non è vita. La fede è la chiave per dire come vivere questa vita. Enrico, tu usi molto la parabola nel descriverti, nel raccontarti, nel tentare di superare anche questo, non certo incolmabile, ma c'è anche una differenza generazionale tra Enrico Salecce e Rita Coruzza. Rita più giovane, e quindi tu all'inizio gli descrivi che cos'era il mondo di formazione della tua generazione, dalla televisione in bianco e nero, i libri, le figurine, si comincia proprio così, il libro è uno scambio di conoscenze reciproche, e poi si arriva più avanti in capitoli finali, in cui si arriva anche ai grandi temi, la religiosità, la politica, l'economia, la grande crisi economica, come ciascuno vede queste due cose così. E ti chiedo però, rimaniamo ancora un secondo su questo terreno, dal punto di vista di chi è laico e si pone un problema della religiosità nel nostro paese, dell'importanza che ha nella sua storia e nella difficoltà in cui questo poi si è tradotto anche nella politica, nell'evoluzione del sistema politico e istituzionale. Secondo te, per l'osservatorio da cui parli, che naturalmente non ti impegna, parli a titolo personale, però è un osservatorio importante, delicato, e l'incrocio di tensioni e anche di soluzioni della vita politica e istituzionale del nostro paese, perché è l'istituzione più alta, il Quirinale, e servirla credo che sia anche un grande onore da un certo punto di vista, oltre che la prospettiva di poter avvalorarsi di un grande osservatorio. In quell'osservatorio tu pensi che questo tema della religiosità della centralità dell'uomo abbia trovato nel nostro paese una soluzione, vista la storia delicata da cui proveniamo, una storia di contrasti, la questione romana, eccetera eccetera, ma abbia trovato alla fine una soluzione o siamo ancora alla ricerca di qualche cosa? Se guardiamo alla politica, alle istituzioni, spesso la matrice cattolica sembra una scusa e tal'altra sembra per altri invece una missione. Insomma, come la pensi tu? Hai cominciato a parlare di mal dei privites nel suo libro e poi arrivi a parlare anche di questo. Ci siamo riusciti a fare della religiosità qualcosa che non divide, secondo te, nella vita pubblica del nostro paese? Dunque, Oscar, intanto io parlo di mal dei primitives perché penso che il costume faccia parte della formazione della mia generazione e va assolutamente divulgato ai ragazzi di una generazione più giovani. E quindi quando io ho voluto, come dire, donare un po' me stesso a Rita per ricevere in cambio qualcosa da lei, perché non si può ottenere senza dare qualche cosa, allora dico, beh, io mi bevo un po' di Rita, no? La paragonavo un po' a un buon bicchiere di vino, a proposito del buon umore. Tre volte che avevo voglia di un po' di buon umore mi mettevo al telefono e sentivo Rita o scrivevo Rita, perché insomma è una ragazza che ha anche, voglio dire, una verve sua da brava emiliana, mi ha fatto anche tante volte sorridere con le sue battute, quindi diciamo che per darle io un po' e per dare un senso a questa storia di un'amicizia ho detto, ok Rita, adesso ti faccio, che voglio ricordarmi e ricordare a te come eravamo, come siamo noi quarantenni, no? La generazione poi di questi che a 40 anni dovrebbero dirigere insomma una nazione e invece dormono magari una 500 di proprietà dei genitori, poi cinquantenni stessi, ed è sempre anche qui un fatto di costume, non stanno meglio di noi quarantenni, magari la 500, quella vecchia, quella piccola, ce l'hanno di proprietà ma sta dentro un garage di proprietà sempre dei genitori, quindi sa, voglio dire, è stata una storia anche un po' amara di riscoprire le mie origini e vedere a che punto siamo. In fondo il libro è i miei primi 40 anni e i successivi 60 di Rita, cioè è chiaro che poi arriva un momento di fare un bilancio. Dunque, tornando al discorso, è chiaro che il problema della religiosità in uno Stato che è laico, costituzionalmente laico, che non ammette alcuna differenza, ricordiamolo, è un problema però centrale. Io ho cercato di trattarlo dal punto di vista della politica economica, cioè ho ripreso come dire l'ultima grandissima enciclica in materia di politica economica, di la Caritas in Veritate, Caritas in Veritate, che a sua volta eredita in molte parti la Populorum Progressio di Papa Montini, di Pio VI. Perché lo dico? Perché soprattutto diciamo questo settennato con la presidenza Napolitano ha voluto, diciamo, dopo la precedente esperienza di Carlo Azeglio Ciampi, che voglio dire è certamente dal punto di vista economico contraddistinta dall'ingresso dell'Italia nel sistema della moneta unica, con questa presidenza invece l'attenzione, il faro si sposta, diciamo, sulla integrazione politica europea e sul differenziale nord-sud, sulla questione del mezzogiorno. Sono tutti grandi temi di politica economica in cui entra moltissimo la questione religiosa in uno Stato che ospita la Santa Sede, e quindi nei rapporti sia ufficiali, diciamo, a livello di visita di Stato che il Presidente della Repubblica intrattiene con i papi, con i pontefici, sia a livello poi di dibattito, di discussione, è chiaro che in Italia, poi ricordiamocelo Oscar, corrono nel 2011 i 150 anni dell'Unità d'Italia, il tema assume, non secondo me, ma è ormai stabilito che assuma una rilevanza fondamentale, centrale. A che punto siamo arrivati? Beh, noi cerchiamo di dirlo nel libro, nel capitolo sul crocifisso. Allora, di qui ti fermo un secondo, ti fermo un secondo perché noi abbiamo l'informazione sulla circolazione stradale, riprendiamo di qua perché c'è un passaggio oltretutto nel quale io mi ritrovo molto, io sono antirelativista, penso che la filosofia francofortese, post-francofortese ci ha descritto un'incapacità tendenziale sistemica dell'uomo di porsi al centro della sua capacità di farsi metro, misura, responsabile della storia. Penso che questa sia una debacle complessiva, penso che sia figlio di questo il fatto che poi la gente non sa più crescere i figli, non li prende a calci in culo, ma a lavorare, che poi ci sono i quarantenni nelle auto dei padri e i padri che perdono la testa dietro le ragazzine. Penso che ci sia complessivamente tutto questo, e cioè questa frase che tu citi a un certo punto di Georges Brassens, che viene citata a proposito nel capitolo in cui parli dell'enciclica, e dice: la più peculiare caratteristica dell'uomo contemporaneo è il non sentirsi colpevole di nulla. E non si sente colpevole di nulla perché è diventato incapace, spesso ermeneuticamente, filosoficamente perdendosi nei particolari, di capire che la responsabilità e anche la colpevolezza è il metro di ciò per cui stiamo qua, e va applicato a se stessi, agli altri, in ogni piccolo passo. Chi non si sente responsabile, colpevole di nulla, si sente vittima di tutto, è un incapace, è tendenzialmente la negazione di quella scintilla che c'è in ciascuno di noi, che è una scintilla di capacità e quindi di responsabilità. Strade. Eccoci tornati in studio. Enrico Frecci stava parlando della questione del crocifisso. Un secondo solo, perché abbiamo due ascoltatori che sto tenendo troppo a lungo per il telefono. Una breve testimonianza per dirci cosa pensano. Siamo partiti dal tema della disabilità e dalle parole pronunciate dal presidente della provincia di Udine, e cominciamo a sentire cosa ne pensa rapidamente Giovanni da Taranto. Prego Giovanni. Io vorrei segnalarvi che quest'estate è accaduto nella mia città, quindi Taranto, non Udine, un fatto a mio avviso grave. Cioè, due ragazzi down hanno chiesto l'iscrizione presso un noto liceo, per capirci, un liceo dove è uscito Aldo Moro, dove si è diplomato Aldo Moro. Sono state dissuase le famiglie dalla coordinatrice dell'insegnante e il preside è a conoscenza di questo. Quindi dai dirigenti scolastici sono state dissuase? Sì, sono state dissuasi. E di questo ne ha riportato notizia il Corriere del Giorno il 5 luglio. Sono stati dissuasi con questa motivazione. Ci è stato detto ai genitori: ma vi rendete conto, togliete la possibilità a due ragazzi normali, tra virgolette, di diventare dei seri professionisti. E è accaduto questo in città, pochi l'hanno saputo. Io, per quanto mi risulta, nessun organismo di controllo è intervenuto, e è andata così. È, a mio avviso, una specie di eugenetica di classe. Questo è tutto. Grazie Giovanni. In questo caso io dico che però i cittadini, cioè chi legge questo, io per esempio perché faccio il volontario? Perché sono diventato un malato a un certo punto nella vita, lo ammetto. Questa roba mi ha un po' cambiato dentro. Penso che poi dal basso bisogna fare. Cioè, io penso, no, Giovanni, non faccio lezione a nessuno, non sono metro di niente, non valgo nulla. Detto questo, dico che se uno legge una cosa simile, per come sono diventato nella vita, a questo punto mi attaccherei ai telefoni, cercherei di conoscere le famiglie, tenterei di dire: posso dare una mano dal basso per arrivare a capire come si fa, come sono, e se ci sono le ragioni dei dirigenti scolastici, senza condannarli in partenza. Ecco, tenterei di dire che un po' come tutto nel paese si risolve dal basso, e della sconfitta, il dire ma non si può cambiare, credo che sia una dei difetti fondamentali di cui iniziamo a essere afflitti. Sentiamo Giuseppe da Ferrara. Prego Giuseppe, rapido. Buongiorno Giannino, buongiorno anche ai suoi ospiti. Il mio intervento riguardava differenziare due cose. La disabilità fisica è un problema che alla fine praticamente ha delle ripercussioni unicamente sulle infrastrutture, ma le infrastrutture dovrebbero essere, come posso dire, normali, cioè dovrebbero essere un qualche cosa che si dà per scontato, come le linee della strada, come i cartelli. Però sappiamo che non è così, perché nella progettazione architettonica degli spazi urbani, civili, eccetera, in realtà la questione delle barriere è ancora importante. Comunque, giusto il problema sarebbe un ritorno, diciamo, aggravamento economico, ma questo per i cittadini insomma non dovrebbe essere un problema. Invece la disabilità come ritardo mentale, quello potrebbe essere, perlomeno nella scuola dell'obbligo, affrontata in maniera diversamente. Detto che tutti i cittadini hanno il diritto, va bene, di essere seguiti e avere un corso formativo il più omogeneo possibile, ritengo che nel caso per esempio della quanto riguarda la scuola dell'obbligo, quantomeno, dovrebbero essere differenziate, nel senso che questi cittadini con un ritardo mentale È chiaro quello che dice Giuseppe. Tu dici: esiste caso per caso, quando ci sono casi di ritardo mentale particolarmente accentuati, inutile fare la retorica del siamo tutti uguali, hanno bisogno di essere seguiti in maniera differenziata. Ma la delicatezza è che affrontare tutta la questione della disabilità attraverso differenziazione, secondo me non significa quello che tu stai sottolineando, significa un'altra prospettiva. E per questo che secondo me le parole del Presidente della Provincia sono sbagliate e non giuste come tu il problema che segnali. Andrea da Verona, ancora rapidissimo, Andrea? Sono io, buongiorno Giannino. Io sono padre di un bambino disabile, disabilità psichica, così mi rilascio a quello che ha detto sull'ultimo ascoltatore. E porto invece l'esempio di una integrazione scolastica, si parla di asilo, che sta funzionando per mio figlio, ma sta funzionando per gli altri bambini, perché qualche bambino si è avvicinato al disegno proprio per aiutare mio figlio a disegnare. Rimango basito, io sono un liberista, il presidente della provincia come professor Pini, come l'altro assessore piemontese, possono avere la loro opinione. Io sono un liberista, l'accetto. Rimango basito di fronte all'ignoranza di queste persone che non sanno che esiste quello che si chiama PEI, programma educativo individuale. Mio figlio segue un PEI, lo seguirà finché non potrà adeguarsi a un programma educativo normale. Grazie, grazie Andrea da Verona. E la logica spietata, avete sentito, parte la trasmissione perché dicono che Giannino sfora troppo, e allora io devo automaticamente, cari Enrico e cari Rita, io salutarvi e ringraziarvi. Io vi ricordo tutti, distanze ravvicinate, San Paolo di Torre, alcune amicizie nascono da lontano. Rita Coruzzi, l'avete sentita, è una donna più coraggiosa di molti di noi, molti tra virgolette normali. Enrico Saleci, leggetelo perché io lo conosco bene, è uno strepitoso uomo dei nostri tempi, uno che serve alle istituzioni e che ha un grande percorso di vita umana e personale. Ne approfitto per salutare anche la moglie e il figlio. Leggete Distanze ravvicinate, grazie a Rita Coruzzi, grazie a Enrico Saletnic. Appuntamento a domani, grazie alla redazione Alessandro Marco Tulli, Franco Piantanida, grazie a cui andiamo in diretta, e in regia Carmelo Lauricella. Linea al giornale radio.